Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, questa settimana ci concentriamo sulla sostenibilità, sulla natura, su mete dove andare tutto l'anno e a portata di mano, il sommario. Questa domenica è di scena la Croazia, la regione del Quarnero in particolare. Poi andremo a scoprire la Toscana, la sostenibilità delle sue coste e una iniziativa rivolta ai visitatori. In chiusura, qualche consiglio sulle applicazioni da usare in viaggio. La Croazia è proprio dietro l'angolo per noi, un paese con cui abbiamo grande confidenza, che come l'Italia ha tanto da offrire e che quest'anno a Fiume ospita la cultura europea. Fiume è compresa nel territorio del Quarnero, letteralmente il braccio di mare dell'Adriatico settentrionale che separa l'Istria dalle isole di Cherso e Lussino. In realtà tutta la regione che si affaccia su questo mare. Irena Persic-Zivadinov è la direttrice dell'ente del turismo del Quarnero. La Croazia prima di tutto è un bellissimo stato, una destinazione sì per turisti, però anche molto bella per vivere, appunto per questa cultura e modo di vita mediterraneo. Il clima che è fantastico, una gastronomia stupenda e poi le bellezze naturali veramente da mozzafiato. Poi la regione del Quarnero, da dove vengo io, che si trova nella parte settentrionale della Croazia, cioè dell'Adriatico, molto vicina all'Italia. Da secoli ovviamente ha avuto questa influenza italiana e dico che molte cose sono anche simili. Noi abbiamo la minoranza italiana, io ho fatto tutte le scuole anche in lingua italiana e sicuramente c'è un miscuglio di diverse culture nella zona. Forse la descrizione di quello che è il Quarnero oggi si capisce meglio quando uno si chiede cos'è il Quarnero effettivamente. Cioè, la parola Quarnero, cioè quello che è la regione, deriva dalla parola latina quaternarius, ossia il punto dove le quattro parti del mondo si incontrano. Io dico anche quattro culture diverse, l'influenza diversa di altri paesi che abbiamo avuto. E oggi in un piccolo posto si può in breve tempo assaporare diverse culture, diverse gastronomie. L'architettura della regione è molto diversa. Noi per esempio al nord abbiamo le montagne, al sud abbiamo le isole, all'est abbiamo la costa e la penisola all'occidente. Cioè in un piccolo posto c'è un sacco di diverse cose. Io credo che anche per questo i turisti amano il Quarnero. Prima di tutto è vicino all'Italia e poi un posto che è anche abbastanza simile forse a questa cultura mediterranea che c'è anche in Italia, c'è questa accoglienza, quel cuore caldo del Mediterraneo, un clima buono e poi una vasta offerta di diverse possibilità, insomma, del turismo e per tutti i gusti. Particolare forse è che noi viviamo il turismo durante tutto l'anno perché non abbiamo questi posti che d'inverno sono deserti, c'è la gente che vive e allora è anche diverso se uno viene anche a gennaio o febbraio quando c'è per esempio il carnevale oppure poi a marzo quando abbiamo le giornate del wellness, c'è sempre qualcosa da fare. Allora non bisogna venire soltanto per Ferragosto, ma durante tutto l'anno ci si diverte. Allora, facciamo un giro ipotetico. Lei certo. Da dove partirebbe e come proseguirebbe? Beh, noi da un certo punto di vista il Quarnero l'abbiamo diviso in diverse zone, come per esempio quella di Fiume e dintorni. Fiume è la capitale, diciamo, dell'amministrativa della regione, che poi quest'anno è anche capitale di cultura europea. Siamo molto fieri, ecco, di questo titolo che abbiamo ricevuto. Sicuramente questo titolo è stato ricevuto grazie a una cultura anche sotto la protezione dell'UNESCO molto vasta, dove ognuno trova qualcosa di per sé, ecco, da ammirare in zona. Poi c'è la zona di Abbazia, cioè Opatia e dintorni. Abbazia è stata il posto dove il turismo ha avuto i suoi inizi ancora 180 anni fa, perché l'impero austro-ungarico ha scoperto questa zona e ha deciso di farla come una loro dimora invernale. E ripeto, non estiva, una dimora invernale, perché lì ha trovato un clima fantastico dove spendere i loro inverni. Ha capito che il clima è molto anche sano per il corpo umano, dove il mare, l'aerosol dal mare, il sole, la gastronomia e così via della zona beneficano all'organismo umano, così che oggi a noi piace dire, se trascorri una settimana nel Quarnaro, che ti sei guadagnato un anno di salute. Ecco, così vi invito tutti a provare su ragione. Poi dall'altra parte ci sono le nostre isole, c'è l'isola di Veglia, l'isola di Arbe, Lusin piccolo, Lusin grande, cioè Lusino e Cherso, che sono veramente quattro isole molto diverse da scoprire. Per esempio Cherso, che è un Mediterraneo come era una volta, proprio molto sostenibile, molto un po' all'antica forse, però che è ideale per qualcuno che vuole una vacanza molto tranquilla dove riempire le batterie, come ecco, piace dire a noi. Dall'altra parte Lusino, che è pure molto bello, una natura fantastica, però che negli ultimi anni ha investito moltissimo nelle strutture ricettive, anche strutture ricettive molto di lusso, così che ecco, c'è questa natura. È più mondana, però, diciamo, forse. Da un certo punto di vista mondana, però dall'altra anche c'è quella natura intatta, quelle baie un po' da scoprire, dove sicuramente si possono anche trovare baie deserte dove uno può fare il bagno da solo, immerso in mezzo al verde dei boschi, dei pini e dell'acqua cristallina azzurra. L'isola di Veglia è forse un po' più, diciamo, vissuta, ci sono tante cose, avvenimenti, sempre qualcosa che succede. L'isola di Arbe direi altrettanto. Una cosa dove invitare gli ascoltatori sarebbe la fiera di Arbe, dove tutta la città, cioè l'isola, il 25 di luglio si trasforma in un borgo medievale. Allora i partecipanti, ecco, a questo evento lasciano, aprono le porte delle proprie case, si vestono in vestiti medievali e fanno vedere ai turisti come si viveva una volta, diversi secoli fa. È veramente una cosa fantastica, perché non è questione di 3, 4 o 5 case, è veramente l'intero paese. Poi abbiamo la parte di Crikvenica e Novi Vinodolski, che ha delle belle spiagge, strutture ricettive moderne, ecco, per turisti, e l'entroterra chiamato Gorski Kotar, che veramente sono le montagne, così che in un piccolo posto potete magari anche durante l'inverno sciare la mattina e fare delle belle passeggiate, oppure andare in vela il pomeriggio. Questa è la diversità della nostra zona, infatti il nostro slogan è "la diversità è bella", appunto perché la regione è molto diversa e in poco spazio si possono, ecco, vedere tante cose diverse. Vorrei tornare per un momento solo a Fiume, vorrei capire come si è preparata la città per questo anno, che sarà appunto un anno particolare, quindi immagino che saranno previsti anche molti eventi. Certo, ci sono centinaia e centinaia di eventi diversi. Adesso il 1° febbraio c'era l'apertura di Fiume come capitale europea. Questa apertura è durata per piene 24 ore, in giro per la città c'erano più di 70 eventi solo in quel giorno. Ovviamente ci sono tanti altri eventi preparati per il resto dell'anno, alcuni eventi molto importanti con delle associazioni oppure altri personaggi che vengono dall'estero, che sono a livello mondiale importanti, oppure quelli locali, e si cerca di fare una combinazione di tutto per farlo il programma quanto più attrattivo per i clienti. Secondo lei c'è ancora qualcosa che vale la pena di scoprire? Una destinazione, una meta, un posto, qualcosa che magari che le è rimasto, che per lei è nel cuore e che non è così conosciuto? Beh, quello che io suggerirei a tutti prima di tutto è che il Quarnaro, siccome è una cosa molto vasta, cioè ha un'offerta molto vasta, direi che ognuno sicuramente riesce a trovare qualcosa per sé, dipende dai propri gusti. Sempre può rivolgersi ovviamente a noi, nelle nostre pagine web si trova un po' di tutto, e che riuscirà a trovare un qualcosa che gli interessa. La cosa importante, almeno io lo credo, per i turisti è avere un punto di riferimento, ossia programmi che sono stati controllati. E noi come ente del turismo, noi abbiamo fatto il branding di diversi prodotti, come per esempio la nostra offerta outdoor l'abbiamo controllata, ed esiste un marchio di qualità che si chiama Quarnaro Outdoor. I nostri ristoranti li abbiamo controllati, abbiamo dei criteri tipo le stelle Michelin, e abbiamo il nostro programma Quarnaro Gourmet e Quarnaro Food, e poi anche per gli alloggi per esempio privati abbiamo il marchio Quarnaro Family. Ossia sono prodotti che noi come ente del turismo abbiamo controllato e che siamo sicuri se un cliente ci va là o se un turista sarà soddisfatto. Per noi è importante appunto la qualità della nostra offerta, non puntiamo al turismo di massa ma ad alzare la qualità, e allora suggerisco a tutti di andare prima, ecco, di prenotare una vacanza, di controllare o andare a vedere, ecco, questa offerta che abbiamo preparato per loro, così un domani torna a casa contento e felice con quello che ha trovato in zona. Noi comunque rimaniamo sempre a disposizione. Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Tutti gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi, e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sull'Autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Globetrotter 24. Alla fine dei miei giorni vorrei rifare a piedi, sacco in spalla, la strada da Monte San Savino a Siena, costeggiare quella campagna d'olive, d'uve, di cui risento l'odore, vedere allora sorgere Siena nel tramonto con i suoi minareti, come una Costantinopoli di perfezione. Le parole le abbiamo prese in prestito da Albert Camus, e parlano di un piccolo spicchio di Toscana. Toscana che sta cercando di dare un senso concreto alla parola sostenibilità. Francesco Palumbo è il direttore della promozione turistica della regione. La sostenibilità è un termine di cui tutti sentono parlare, basta aprire un giornale o sentire la radio o un telegiornale e la sostenibilità è sui titoli di tutti i primi servizi. In realtà a noi ci piacerebbe veramente qualificare la costa toscana, che è fatta da 132 comuni, come la piattaforma più grande d'Europa, tutta orientata alla sostenibilità, e dargli però un senso concreto, che vuol dire essere sostenibili, e abbiamo attivato 3-4 azioni che testimoniano come stiamo lavorando a che la costa toscana sia sostenibile. La prima è il plastic free, è la prima regione che ha adottato l'obbligo del plastic free nei bar e negli stabilimenti balneari già dall'altro anno. Non si usa più la plastica usa getta monouso, ma si usano stoviglie di carta. Così come il plastic free abbiamo lavorato per esempio con i pescatori della Toscana, che raccoglievano insieme al pesce anche le bottiglie di plastica, tutti i residui della plastica, prima le dovevano ributtare in mare perché erano considerati rifiuti speciali da smaltire in maniera speciale, quindi per loro è un costo. Abbiamo lavorato come Regione Toscana con tutti i pescatori affinché li raccolgono, li portano all'interno dei porti dove vengono smaltiti a costo delle pubbliche amministrazioni, ma per pulire il nostro mare e per far sì che le spiagge non abbiano la restituzione di quello che dalla terra gli proviene, no? Perché magari dalla montagna o dalle città d'arte viene lasciato verso il mare. Ma anche il trasporto, non c'è una destinazione sostenibile se non dove si possa spostare senza un impatto considerevole. Quindi stiamo lavorando affinché non si venga più in Toscana con la macchina propria, soprattutto sulle coste, ma si possa venire in treno, poi si arriva in treno e si trovano o biciclette elettriche o piccole auto elettriche che si possono lasciare negli hotel. E quindi uno arriva in hotel, lascia l'auto elettrica o la bicicletta e la riprende quando vuole, magari per andare nello stabilimento balneare, e anche lì trovare accoglienza per il sistema elettrico e lasciare la bicicletta affinché quando ritorna dal mare la possa riprendere. Questo sistema farà sì che la costa della Toscana sarà un'unica piattaforma di mobilità elettrica, all'improvviso la più grande d'Europa. Sapete che l'automotive investirà 240 miliardi di euro nei prossimi 10 anni sulla mobilità elettrica, essere il territorio che offre la più grande rete di mobilità elettrica è un grande anche interesse per chi viene ad investire. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Cosa rende sostenibile una destinazione? La rende anche la possibilità di fare delle attività, non le classiche attività tipiche in cui il turismo si concentra in pochi periodi dell'anno, in pochi luoghi, ma vedere spazi mai visti o per esempio utilizzare in maniera alternativa destinazioni già note. Ho presente l'arcipelago della Toscana, le isole che sono tutte un unico grande parco naturale, che si possa andare lì e fare degli sport, per esempio camminare sull'isola d'Elba nel GTE, che è il grande cammino turistico, il Grand Tour dell'Elba ad Alta Quoca, per 3 giorni, oltre 55 km di cammini su un'isola strepitosa, che si possono fare anche ottobre, novembre, in mesi dove tradizionalmente non si usa il mare. Oppure stiamo mettendo insieme un pacchetto di oltre 36 attività sportive che si possono replicare su tutta la costa, dal free climbing fino all'attività subacquea, dalla bicicletta fino alle passeggiate a piedi, un'enorme piattaforma dove camminare, prendere treni storici, passare dalla bicicletta al monopattino, dal monopattino alla piccola auto elettrica e, perché no, una barca a vela che consente di fruire il mare in maniera silenziosa, tranquilla, spinti dal vento. Quest'idea di Toscana, posto che ti accoglie, con una logica, quello di farti sentire un po' toscano. Per quei 3 giorni, per quella settimana, per quei 15 giorni, diventi un po' toscano, sei un po' toscano, ti porti dentro, ti porti a casa, anche se vieni da molto lontano, un pezzetto di Toscana, e torni quando vuoi perché ritrovi una parte di casa tua. In Toscana fa sì che noi lanceremo a breve questa nuova campagna di promozione, che non faremo noi come agenzia di promozione, ma lasceremo fare ai turisti. Si chiamerà, l'hashtag è My Tuscany, e sono i turisti come i turisti vedono la Toscana. È il modo migliore oppure per la loro rappresentazione, per il loro rapporto. Sappiamo che la Toscana è già nota per il patrimonio storico, paesaggistico, culturale, per le città d'arte, per i monumenti, ma vedere come ogni turista vive la Toscana ci porta un occhio, un punto di vista completamente differente e coinvolge molto. E quindi io invito anche tutti gli ascoltatori di Radio 24 a venire e a sperimentarsi in questo contest, perché sarà un piccolo bando in cui regaleremo una vacanza in Toscana a chi farà non solo la foto più bella, ma a chi abbinerà un aggettivo che corrisponde meglio alla sua Toscana e alla foto che ha fatto. Visto che lo ha detto stesso lei, che la Toscana è nota, è conosciuta per le tante bellezze, dall'arte alla natura, voglio chiederle se secondo lei c'è ancora qualcosa da andare a scoprire, magari in bicicletta. Magari in bicicletta sicuramente, o anche via mare. Io ho in mente diversi posti della Toscana, ma sicuramente non ne citerò tanti perché veramente sono tantissimi posti ancora da scoprire. Ma ho in mente per esempio l'isola di Capraia, che sta in mezzo al mare fra la Toscana e la Corsica, da dove si vede sia la Toscana che la Corsica, una piccola, piccolissima isola dove si va e si è accolti in maniera incredibile, dove c'è l'allevamento di pesci più bello del mondo perché è profondo 40 metri e quindi i pesci nuotano come in un acquaio. Io personalmente ho avuto quasi l'istinto di tuffarmi nelle vasche del pesce perché era talmente trasparente, mangiano solo mangime biologico e si possono mangiare anche crudi, quindi abbiamo pescato alcune di quelle orate e sono state a sfile crude, erano sicuramente da ristorante stellato. Capraia è una piccolissima isola dedita all'agricoltura e quindi si può passeggiare e vedere come nei tempi antichi si allevavano le capre, si faceva agricoltura e si faceva la pesca, come vi stavo raccontando. C'è il Festival del Totano a novembre, che è un'esperienza particolare, a novembre su un'isola a mangiare i totani, piuttosto che ovviamente la Garfagnana o il Mugello. Chi è che conosce il Mugello come territorio dove c'è l'autodromo e si può fare un giro in Ferrari molto bello, ma anche passeggiate lungo il lago di Bilancino, piuttosto che acquistare i coltelli di scarperia fatti a mano ancora in un'unica lama dal manico fino alla lama. Quindi, o invece posti intorno ad Arezzo, dove c'è il Museo del Diario, un piccolissimo museo dove sono rappresentati tutti i diari della popolazione. Uno va lì e impara in poco le storie di chi ha vissuto in quei luoghi, da Piero della Francesca in poi. È veramente un posto incredibile. Come questi sono tanti, l'abbazia di San Galgano con la spada infilata nella roccia. Veramente la Toscana merita una conoscenza lenta, dove ci si può muovere girando e scegliendo il bivio all'improvviso che uno ritiene più utile, quel viaggio fantastico che abbiamo sempre tutti immaginato di andare senza meta, perché dove si arriva si verrà accolti da grandi stabilimenti termali piuttosto che piccole terme, dal piccolo B&B piuttosto che dall'albergo che è pronto ad accoglierci al meglio. Questo tipo di accoglienza permette di vivere a ognuno la propria Toscana, a ognuno il proprio viaggio, dalla grande città al bellissimo paesaggio delle crete senesi fino alla visita della propria abbazia o del piccolo museo. E adesso qualche consiglio su applicazioni curiosate qui e là. SAS Survival Guide, applicazione per chi va all'avventura e magari ha bisogno, così su due piedi, di sapere come si accende un fuoco o altre necessità legate alla vita all'aperto. Scritta da un ex soldato e istruttore del servizio aereo speciale britannico, l'app è una sorta di manuale di sopravvivenza contenente centinaia di consigli pratici. Si sa, a volte tra un volo e l'altro c'è da aspettare, a volte tra una coincidenza e l'altra si è già stravolti e vorreste solo sdraiarvi un momento o anche farvi una doccia se possibile. E allora Lounge Buddy è quello che vi ci vuole. Offre accesso immediato a 170 lounge aeroportuali di tutto il mondo con pagamento a consumo. Il vostro viaggio è fatto di diversi voli o alberghi, oppure tendete a fare confusione con i numeri di prenotazione? In questo caso Tripolt può esservi di aiuto. Dovete solo inoltrare le vostre email di conferma e consentire all'applicazione di accedere alla vostra casella di posta. Dopodiché l'app creerà un itinerario con tanto di mappe. Quando si è all'estero non è necessario avere il wifi, abbiamo fatto senza fino all'altro ieri. Certo è che si tratta di una bella comodità, soprattutto in paesi come il Giappone, per esempio. Wi-Fi SPC vi consente di rimanere online in tutto il mondo grazie a un elenco di reti Wi-Fi e password aggiornato continuamente dagli utenti. Ma se proprio non ce n'è, o magari il costo del wifi è proibitivo e voi avete il sentore che là dove andrete potreste perdervi, maps.me vi permetterà di consultare le mappe offline. Non dovete fare altro che scaricare quelle di cui avete bisogno prima di andare all'avventura. L'ultimo suggerimento è per quei genitori entusiasti che partono pieni di fiducia in un bel viaggio con i propri figli. Ma, cari genitori, dovete ricordare che un momento critico arriva in ogni vacanza. Juglar sarà la vostra carta da giocare perché vi farà scoprire tutte le cose da fare con i pargoli nelle vicinanze. E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. Un ringraziamento in regia a Roberta Frisani. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.